innova il gioco dei sessi. Gli amanti si trovano già la mano dell'amato, con la sua stretta lieve dà brividi al suo corpo e lo inebria il fugace sguardo di lei. In una nuova luce appare il paesaggio agli amanti di primavera, grandi altezze si spiano i primi stormi di uccelli. L'aria è già tiepida, i giorni si allungano, i prati rimangono chiari in primavera. A dismisura crescono alberi ed erbe, ininterrotto è il fruttificare del bosco, dei prati e dei campi. Sventatamente, come un gioco immortale, ancora la terra rigenera il nuovo. Ed io mi sento parte inscindibile di questa armonia, schiavo e padrone della sua legge che ordina al mondo.